storia nasce dal quotidiano, da quello che io vedo tutti i giorni a Bologna e dintorni, possiamo dire, grazie al fatto che facendo da giornalista ho l'opportunità di toccare con mano diverse storie. E allora ho voluto capire, intervistando i protagonisti, sono veramente tanti, che cosa si nasconde nell'altra metà della luna di Bologna. Quindi che cosa c'è così sotto il tappeto, anche perché molte di queste persone sono di fatto invisibili, ma le invisibili ci sono sempre state, ci sono persone che hanno perso tutto nella vita e che hanno avuto problemi di varia natura, personali, di lavoro, anche di stupefacenti, i ludopatici, ma la differenza rispetto alla recente passato, e per recente parlo di 10 anni fa, è che i nuovi poveri sono accanto a noi, siamo noi, basta perdere un posto di lavoro su 2 persone in famiglia, basta che ci sia la macchina da cambiare o un elettrodomestico che si rompe, ecco che una buona fetta di bolognesi e di italiani scivola nella povertà. Tra tutte le storie che hai raccolto, ce n'è stata una che ti ha colpito in particolar modo, che hai voglia di condividere con noi, che in qualche modo rappresenti tutta l'anima di questo film? Una è quando sono andato con la compagnia di Sant'Egidio, siamo andati di notte a parlare con le persone che abitano per strada ed io ho sentito storie che possono veramente capitare ad ognuno di noi, persone che divorziano e che si trovano a dormire in una tenda sotto a un portone, specialmente uomini, oppure altre persone che hanno soltanto il biglietto del treno per raggiungere una città dove dovrebbero conoscere una persona che li potrebbe aiutare oppure no, dipende se la incontrano, non hanno nemmeno il telefono per poterla raggiungere. E un'altra storia è alla Porticina della Provvidenza, che è un'associazione che esiste da 100 anni, a 2 passi da San Domenico, e ci sono delle signore anziane che non soltanto rammendano i vestiti che vengono presi gratuitamente ogni giorno da centinaia di persone, ma aggiustano i giochi per i bambini, perché fare un regalo a un bambino, che so, una bambola senza un occhio o senza una mano, non sta bene, devono essere felici almeno in quell'istante, e allora vengono rammendati questi giochi. Qual è l'immagine di Bologna che emerge da questo documentario? Bologna è a 2 velocità. C'è una Bologna giustamente che mira all'eccellenza, che ha situazioni economiche, finanziarie, di profitto di super livello, grandissime aziende, e c'è un'altra Bologna che è composta da migliaia di persone, sono almeno 4.500 le persone che nelle varie mense ogni giorno hanno bisogno di un pasto perché non se lo possono permettere. E c'è un'altra parte di Bologna, diciamo così, 5-6% della popolazione, che è ai margini di questa povertà assoluta. Ecco, l'auspicio è che questo mio docufilm possa servire perché ci possano essere delle iniziative sociali, politiche e civili affinché questa parte non entri in questa soglia di povertà, perché altrimenti la forbice si allargherebbe ulteriormente. Dunque, insomma, la situazione è sotto gli occhi di tutti, però, come dici tu, le voci dei protagonisti sono spesso soffocate da tanti altri temi. Dunque, cosa speri che rimanga allo spettatore che va a vedere il film? Intanto la presa di coscienza di una situazione che non è straordinaria, anzi la presa di coscienza che Bologna, così come tante altre città italiane, non vive una realtà diversa. I problemi ci sono anche qua, come sono a Milano, a Roma, a Napoli e a Torino. E mi piacerebbe che questi volontari del terzo settore, che sono all'Antoniano piuttosto che alle cucine popolari, piuttosto che in altre realtà, possano essere sempre di più, dare il loro contributo per sostenere queste persone, ma soprattutto per parlare con loro, perché alla fine della fiera la vera povertà è quella relazionale, perché come si suol dire, a Bologna un pasto lo trovi sempre, ma la persona con la quale puoi parlare no.